ecco qui sto pure l'ospite, pure l'ospite, pure l'ospite. Ecco qui sto pure l'ospite. Parra, parra, veloppa. Ecco qui sto pure l'ospite, pure l'ospite, pure l'ospite. Ecco qui sto pure.